2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata dell'8 maggio 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Siamo in onda su Radio 24 da 10 anni, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete scaricarlo a partire al massimo dalle 18.30 del sabato. Trovate tutte le informazioni, tutte le istruzioni per utilizzare il servizio podcast su www.radio24.it. Da lunedì, adesso abbiamo alcune notizie come sempre all'inizio della nostra puntata, da lunedì, dicevo, Apple accetterà ordini per l'iPad anche in Italia, che sarà disponibile nel nostro paese a partire dal 28 maggio con un mese di ritardo rispetto alle previsioni. Apple ha comunicato anche i prezzi, che sono stati tradotti in euro senza tenere conto del cambio, anche se devo dire ultimamente il cambio è meno favorevole rispetto a qualche mese fa. Il modello più economico costerà 499 euro, quello più costoso con connessione 3G 799 euro. Prezzi non certo economici, per i quali ci sarebbe sicuramente un buon margine di riduzione, stando almeno alle analisi di una società americana che è specializzata nel calcolare il costo dei prodotti industriali, soprattutto quelli di elettronica di consumo, iSupply. Secondo questa società, l'iPad da $499 costerebbe alla produzione $260, quindi circa la metà, in particolare $259,6, $95 costa il display, che è il pezzo più costoso e sicuramente anche quello tecnologicamente più avanzato, $26,80 il processore. Poi naturalmente a questi vanno aggiunti anche i costi di pubblicità, di marketing, che sono sicuramente importanti ed elevati, però c'è sicuramente margine. Certo, fa bene la Apple a mantenere prezzi così alti, visto che le vendite vanno molto bene. In un mese la società ha venduto 1 milione di iPad, 500.000 solo nella prima settimana. Vedremo poi come vanno le cose in Europa. Non tutti i paesi riceveranno questo prodotto, quindi a volte gli italiani si lamentano perché sono tra gli ultimi a ricevere prodotti di elettronica di consumo. Ad esempio il Belgio e l'Olanda o l'Austria lo riceveranno a partire da luglio. Nel frattempo a Cupertino in California, dove ha sede la Apple, è arrivata la notizia di una nuova causa depositata in un tribunale americano dalla Nokia. La società finlandese accusa quella americana di avere violato 5 brevetti per la realizzazione sia dell'iPad ma anche dell'iPhone. Non è la prima causa tra le due aziende, una prima azione legale partita ad ottobre sempre da Nokia, che accusava sempre l'Apple di aver violato alcuni brevetti. Apple ha risposto a dicembre controaccusando i finlandesi di aver violato una serie di brevetti. La Nokia tra l'altro ha chiesto anche alla Commissione per il Commercio americana di aprire un'indagine sulla Apple per violazione di altri brevetti. Nel frattempo, a proposito di tablet, di questo nuovo trend, il più accreditato concorrente della Apple in questo mercato, la HP, pare che abbia deciso di abbandonare il progetto Slate. Se ne è parlato molto in rete, un tablet molto atteso. Secondo indiscrezioni, che si baserebbero su cambiamenti di strategia decisi dopo l'acquisto della Palm, HP punterebbe al sistema operativo della Palm e anche su Android per entrare nel mercato dei tablet e degli smartphone. C'è invece chi pare molto interessato al mercato dei tablet, si parla di Samsung e di RIM. Visto che ci sono molte notizie, c'è molta attesa insomma di questi prodotti, parleremo presto di questo mercato con uno dei nostri esperti. Abbiamo parlato recentemente del dividendo digitale, stiamo cambiando argomento e arriveremo tra poco all'approfondimento di oggi, che riguarda in gran parte la banda larga, sia fissa che mobile. Dicevo, abbiamo parlato recentemente del dividendo digitale, cioè l'insieme delle frequenze che in tutta Europa si stanno liberando grazie al passaggio dalla TV analogica a quella digitale. Dalla riorganizzazione dei canali televisivi si ottengono frequenze che possono essere destinate ad altri servizi, come ad esempio internet senza fili, di cui c'è grande richiesta. In questa direzione stanno andando la Germania, la Spagna, la Francia, la Svezia, la Finlandia e la Gran Bretagna, insomma quasi tutti i grandi paesi europei, tranne l'Italia, dove il dividendo digitale c'è perché si stanno liberando frequenze, ma al momento sono riservate sempre al settore televisivo, quindi la TV aumenta il numero di canali. Questa settimana il commissario europeo alle comunicazioni Neelie Kroes ha detto che intende proporre entro l'anno una direttiva che imponga l'assegnazione ai servizi internet senza fili a banda larga almeno una parte delle frequenze liberate dal passaggio alla TV digitale. La decisione potrebbe contribuire anche al raggiungimento dell'obiettivo di Bruxelles di fornire internet ad alta velocità a tutti i cittadini entro il 2013. Alcuni paesi sicuramente arriveranno a questo obiettivo, altri forse con maggiore difficoltà. Tutto ciò accade mentre su un fronte molto più ampio l'Agenzia Americana per le Comunicazioni, la Federal Communication Commission, ha deciso di richiamare l'attenzione del Congresso americano perché le leggi che regolano internet negli Stati Uniti non sono più adeguate ai tempi, sono vecchie ormai di 14 anni. Il nuovo quadro normativo dovrebbe tenere conto di due principi di fondo che vanno segnati e sottolineati, cioè garantire la neutralità della rete e tutelare l'universalità dell'accesso. Cioè, neutralità della rete, l'abbiamo detto altre volte, significa che i fornitori d'accesso non si devono preoccupare di quello che transita sulla rete, devono essere neutrali rispetto a quello che gira appunto su internet. L'altro punto, cioè l'universalità dell'accesso, significa che l'accesso alla rete internet deve essere il più diffuso possibile sul territorio e anche il più favorito possibile, cioè per i cittadini che hanno ad esempio difficoltà economica dovrebbero essere previsti sconti o agevolazioni. Di questo si discute forse poco in Italia, in Europa meno che negli Stati Uniti. Un'occasione per fare chiarezza sulla neutralità della rete e anche sull'accesso universale potrebbe essere la costruzione di una rete di nuova generazione, una nuova rete in fibra ottica che nel corso dei prossimi anni potrebbe sostituire il doppino di rame su cui viene erogata oggi la DSL. In molti paesi sono i governi a muoversi. In Italia, di fronte all'immobilità del governo e a Telecom che ha un proprio progetto per portare la fibra in alcune città italiane e sicuramente tutta una serie di priorità tipiche di una grande azienda, come dicono gli esperti, di un incumbent, quindi di un ex monopolista, di fronte a tutto ciò tre grandi società, Fastweb, Vodafone e Wind, hanno fatto un appello a tutti gli operatori per la costruzione di una rete nazionale in fibra ottica. Investing in new network technology fundamentally always raises the same question. Ci sono due domande che ci si fa quando si deve investire in una nuova infrastruttura, dice Carsten Schlotter, amministratore delegato di Fastweb. È un investimento di cui abbiamo veramente bisogno? Prima domanda. Dove sono le applicazioni che giustificano così tanta banda? Seconda domanda. And the second question that traditionally comes is where are the applications? Quando si parla di reti di prossima generazione si parla di 100 megabits al secondo, 1 gigabit al secondo, dice ancora Schlotter. Attenzione. If we would have waited for the iPhone to be available before investing in UMTS technologies in the mobile network. Se avessimo aspettato l'iPhone prima di investire nelle reti UMTS, l'iPhone non sarebbe mai esistito. Well, the iPhone would never have happened. I imagine that we would have said, let's wait for YouTube. O se avessimo detto aspettiamo YouTube prima di investire nell'ADSL, bene, YouTube non sarebbe mai esistito. Well, YouTube would never have happened. Due esempi che ci dicono sostanzialmente non possiamo immaginare tutto quello che transiterà sulle reti di prossima generazione. le reti dovranno essere costruite, poi molti servizi nasceranno di conseguenza, molti altri servizi che ci auguriamo possano servire anche alle aziende, alla competitività del paese, non solo ai consumatori per divertirsi su internet con, ad esempio, un video di YouTube. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, a tra poco. Oggi la nostra puntata è dedicata in larga parte, insomma quasi tutta la puntata, alle reti di prossima generazione. Adesso stiamo parlando di una rete in fibra ottica, quindi stiamo parlando di rete fissa che corre sottoterra. Più tardi parleremo, sempre pensando alla prossima generazione, quindi al futuro, ai prossimi anni, al cosiddetto 4G. Oggi ancora alcuni faticano a pensare e a sperimentare alle potenzialità del 3G, quindi all'UMTS, ma in alcuni paesi del mondo molto avanzati tecnologicamente, ma anche culturalmente e mentalmente, si sta già vendendo ai consumatori il 4G, quindi un'evoluzione dell'UMTS che gli esperti chiamano LTE, che sta per Long Term Evolution. Ormai il long term è arrivato e quindi lo chiamiamo 4G. Adesso stiamo parlando della rete di prossima generazione in fibra ottica che è stata presentata da Fastweb, Vodafone e Wind. Bene, ricordate alcuni dei motivi che ci suggeriscono che può avere un senso la costruzione di una nuova rete alternativa al rame, che ormai è stato posato 30, 40, 50 anni fa. Ci si chiederà se Fastweb, Vodafone e Wind vogliono costruire una rete alternativa a quella di Telecom. Sentiamo Luigi Gubitosi, che è amministratore delegato di Wind. Non è un progetto alternativo a qualche altra cosa. Noi pensiamo che ci debba essere un solo progetto, cui partecipano tutte le controparti interessate, come deve essere questa rete del futuro di cui si parla da tempo. Evidentemente non può che essere unica. È un investimento importante. Il rilevante anche impatto urbano e ambientale non permette di avere più reti, non avrebbe senso. Lo schema sarà un fiber to the home, la rete in fibra deve raggiungere ogni singolo appartamento e sarà una rete aperta, deve essere una rete aperta che possa permettere a tutti gli operatori di offrire i loro servizi in concorrenza. Questo progetto di rete è stato presentato a Milano dalle tre società ieri. Un primo embrione di questa rete riguarderà entro l'estate, entro luglio, le 7.000 abitazioni della collina Fleming a Roma, quindi un piccolissimo progetto, un primo assaggio di quella che potrebbe essere l'architettura di questa nuova rete, ma l'ambizione è ben altra, come ha spiegato Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato di Vodafone Italia. Noi immaginiamo una società della fibra alla quale possono partecipare gli operatori a partire da Telecom, alla quale noi auspichiamo possa partecipare Cassa Depositi e Prestiti, proprio perché questa è un'infrastruttura strategica per il futuro del Paese. Potranno partecipare banche, investitori finanziari, altri investitori privati, molte volte si sente dire di aziende che potrebbero essere interessate, le istituzioni locali, le utilities, si sente parlare di progetti locali, ad esempio la Lombardia, benissimo. Possono far parte di un unico progetto nazionale nel quale ciascuno contribuisce e nel quale si cercano delle convergenze. Ciascuno di noi potrà comprare alle stesse condizioni da questa società della fibra quello che serve per realizzare i propri servizi in competizione, come oggi, per i clienti privati, per le famiglie e per le aziende. Beh, su questo ultimo fronte sicuramente speriamo, sarebbe auspicabile una maggiore competizione, anche una maggiore forza delle authority, sia delle comunicazioni sia dell'antitrust, ma anche di questo si potrà discutere in questo dibattito che speriamo si accenda nelle prossime settimane. Del resto è anche l'auspicio che si fanno queste tre società, che di fatto dicono: abbiamo bisogno di una rete di prossima generazione da parte governativa. Tra i mille problemi che effettivamente ci sono, ma forse anche una scarsa attenzione della politica, non arrivano segnali confortanti e allora cerchiamo di lanciare la palla, di smuovere un po' il dibattito per vedere che cosa succede. Sentiamo ancora Bertoluzzo, amministratore delegato di Vodafone, sull'ipotesi che è stata fatta di questa prima parte di rete, che speriamo sia un primo progetto, poi ne seguiranno altri, comunque uno sviluppo futuro è auspicabile, e anche sui costi che potrebbe avere questa prima parte di rete nazionale in fibra ottica. Abbiamo fatto un piano, una simulazione operativa, e abbiamo lavorato partendo da 15 città che abbiamo selezionato con una combinazione di città ad elevata popolazione, ad elevata densità di appartamenti e di aziende, ma abbiamo anche tenuto conto delle città nelle quali esistevano già oggi delle infrastrutture passive, ad esempio i cavidotti, utilizzabili per rendere il progetto il più efficiente possibile. Stiamo parlando di 10 milioni di abitanti, fondamentalmente il 15-16% della popolazione italiana. Ipotizzando di realizzare la nuova infrastruttura su queste 15 città, servono più o meno 2 miliardi e mezzo di euro. Questa è un'iniziativa che è assolutamente finanziabile a tassi di mercato, perché ha un ritorno economico nell'ordine dei 9-10 anni, che per un'infrastruttura che ha quelle caratteristiche che abbiamo detto prima e che ha una buonissima capacità di prevedere i propri ricavi, è assolutamente ragionevole e economico. 2 miliardi e mezzo che potrebbero essere divisi tra indebitamento e investimenti, ai quali sarebbero chiamati a partecipare anche Telecom Italia, l'abbiamo sentito, e naturalmente lo Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti viene citata e tirata in ballo spesso. Ora la parola passa quindi a Telecom, che finora sta pensando ad un proprio progetto per la fibra ed è molto restia naturalmente ad abbandonare il controllo della rete, pur vecchia che sia quella di rame, ma soprattutto la parola passa al governo, che dovrebbe avere una propria idea di sviluppo della rete e dovrebbe anche indicare un modo per garantire l'accesso alla rete internet a tutta la popolazione, perché naturalmente le aziende fanno riferimento ad aree densamente popolate dove ci sia un buon ritorno degli investimenti, ma lo Stato deve pensare a tutta la popolazione. Ci sono ancora zone dove non c'è la DSL, dove è difficile portare la rete internet. Sarebbe sicuramente deplorevole dimenticarsi di un problema che si aggraverà nel futuro, che è quello del digital divide. Visto che il tema è estremamente importante, stiamo parlando di un investimento per le prossime generazioni, per questo che si chiama Next Generation Network. La conferenza stampa di Vodafone, Wind e Fastweb è disponibile sul nostro sito internet, quindi se volete approfondire, sicuramente anche farvi una cultura in termini di fibra ottica è molto utile l'ascolto, dura poco più di una mezz'oretta. Va detto per completezza che alcune città come Milano o ad esempio Cremona sono già cablate in fibra ottica, molte case sono già collegate alla fibra e altre lo sarebbero con poco sforzo anche in molte altre città, perché la fibra gira per molte strade. In tutto ciò, che ruolo potrebbero avere le regioni? Un ruolo molto importante. Oggi parliamo di un progetto che potrebbe partire ufficialmente molto presto, che è quello della regione Lombardia, che essendo tra le regioni più ricche d'Europa ha bisogno per il proprio sistema di imprese di una rete in fibra diffusa e capillare. Ne parliamo con Raffaele Tiscar, che è il responsabile del progetto Banda Larga della Regione Lombardia. Grazie per essere nei nostri studi, benvenuto 2024. Buonasera. Dunque Tiscar, stiamo parlando di un progetto che prevede in prima battuta, potremmo dire, il ritorno delle ruspe per le vie delle città, perché qua si tratta di scavare e posare fibra ottica, così come accadeva ad esempio a Milano all'inizio di questo decennio. Corretto. L'ambizione è quella di ricostruire una rete alternativa all'esistente del rame e segnare, come nel passato lo è stato quando fu infrastrutturata l'Italia con il doppino di rame, segnare il punto di svolta nell'infrastruttura delle telecomunicazioni del nostro paese. Portare fibra a casa, Quindi secondo un modello molto avanzato in cui arriviamo fino alla porta di casa, vuol dire rendere disponibile una enorme capacità di trasporto di dati e immagini inimmaginabile fino ad oggi. La regione Lombardia, quindi diciamo la pubblica amministrazione, in questo progetto, poi vedremo anche quali saranno i tempi di realizzazione, i tempi anche di approvazione, perché questo progetto dovrà essere approvato e ci piace parlarne oggi prima che tutto ciò venga approvato, perché anche questo lo riteniamo insomma una spinta per i politici insomma che dovranno prendere le decisioni, anche se mi sembra insomma il dibattito sia positivo in Lombardia. Dicevo, la pubblica amministrazione è al centro di tutto ciò. Sì, è stato inserito nel programma di legislatura da parte del presidente Formigoni l'obiettivo di portare fibra a casa al 50% della popolazione lombarda oltre Milano, attraverso la costituzione di un veicolo pubblico eventualmente aperto anche ai privati. È compito dell'amministrazione regionale realizzare un punto di sintesi tra aziende, cittadini, enti locali per segnare un valore aggiunto rispetto alla capacità produttiva del territorio e dargli un vantaggio competitivo rispetto al resto d'Europa e perché no anche rispetto al mondo. Ovunque si è realizzata un'infrastruttura di questo tipo, in realtà questo ha significato un punto e due, un punto e cinque in più di PIL nel territorio così infrastrutturato. È un'occasione assolutamente da non perdere per mettere in condizioni imprese e cittadini di poter interconnettersi, in poter comunicare ad altissima velocità con il resto del mondo. Diciamo subito una cosa importante: questo progetto di fatto costa pochi soldi se lo confrontiamo con, ad esempio, un paragone che si fa spesso, le strade, le infrastrutture, quelle fisiche che si vedono in giro, per che forse sono anche un po' troppe e a volte inutili. Quanto potrebbe costare questa cosa di cui stiamo parlando? È stato l'obiettivo del nostro progetto quello di riuscire a mettere dei numeri e delle cifre attorno a delle cose da realizzare. Abbiamo con nostra sorpresa scoperto che in realtà la quantità di risorse economiche necessarie non è così elevata come ci si potrebbe immaginare, e stiamo parlando di un complessivo ammontare di investimenti intorno al 1.350 miliardi, 1.400 milioni nell'ipotesi più avanzata, cioè con un'architettura di rete capace di trasportare tutto quello che è possibile fino ed oltre un 100 e forse un gigabit, 100 megabit e oltre un gigabit. Stiamo parlando di cose 20, 50, 100 volte superiori rispetto alla normale ADSL a cui siamo abituati. E questo ci ha abbastanza sorpreso, perché in realtà quando parliamo di programmi infrastrutturali normalmente parliamo di strade, di ponti, e le cifre in gioco sono assolutamente superiori. Oggi facevo la mia strada sotto la pioggia in un traffico molto sostenuto e immaginavo quanto risparmio avremmo avuto avere a disposizione a casa la possibilità di fare teleconferenza e essermi risparmiato, oltre un'ora di traffico, anche i costi relativi e i costi sociali che questo implica. Beh, Tiscar, l'unica cosa che sarebbe mancata sarebbe stato il caffè, ma questo lo si può risolvere in altro modo. La cosa interessante, perché questi soldi, questo 1.300 miliardi, 1.400 miliardi, può sembrare una grande cifra, ma se noi confrontiamo questa infrastruttura che abbiamo sentito può avere una leva importante sul prodotto interno lordo, sui servizi che possono essere generati su questa rete, se noi confrontiamo tutto ciò con una strada, con una galleria, con un ponte che non so quanto possano muovere del prodotto interno lordo, sicuramente questa è un'infrastruttura che costa poco, o comunque non costa così tanto come altre infrastrutture a volte inutili. Ci fermiamo per pochi minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco un'altra domanda: ma chi paga? 2024. Bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie anche per i vostri messaggi. Potete raggiungerci scrivendo una email a 2024, scritto in cifra, 2024@radio24.it. Andiamo in onda il sabato tra le 16 e le 17, oppure ci trovate online sul sito internet di Radio 24, www.radio24.it, oppure accessibile facilmente anche dal portale del Sole 24 Ore. E come sempre vi ricordo che è possibile, anzi è un consiglio che vi diamo, è quello di utilizzare il servizio podcast di Radio 24. In questo modo potete riascoltare la nostra trasmissione con il file MP3 quando preferite. Il file MP3 è disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi al massimo entro le 18:30 del sabato. E per questo naturalmente ringraziamo i nostri tecnici in regia. Stiamo parlando del progetto di banda larga, ultra banda larga della Regione Lombardia, un progetto che abbiamo sentito potrebbe costare 1,3 miliardi, 1,4 miliardi di euro. Ne stiamo parlando con Raffaele Tiscar, che è il responsabile di questo progetto per la Regione Lombardia. Tiscar, questi soldi chi li paga, cioè l'investimento, chi lo dovrà fare? In realtà il progetto è pensato come un'operazione di finanza di progetto in cui l'equity, cioè la parte del capitale realmente versata dai soggetti proponenti, è intorno ai 300-350 milioni di euro, e immaginiamo una composizione societaria che non vede soltanto la regione protagonista, ma anche lo Stato, Cassa Depositi e Prestiti, fondi, oltre che gli operatori, ivi incluso anche l'incumbent. Quindi diciamo la necessità finanziaria a breve è molto ridotta. Il resto è finanziabile mediante ricorso al credito, secondo una proporzione 30%-70% a debito. Le entrate saranno esclusivamente le entrate dalla messa a disposizione della rete, che verrà pagata dagli fornitori di servizi che trasferiranno quest'onere all'utente. È quello che oggi accade già con il rame. Il rame di proprietà Telecom viene messo a disposizione dei fornitori di servizio che l'utente si sceglie come vuole, pagando una cifra che è intorno ai 9 euro mensili. Senti, in questo caso, visto che abbiamo citato il caso del rame che gli altri operatori affittano da Telecom, ma sulla base di una regolamentazione, di una serie di imposizioni della, sostanzialmente dell'autorità per le comunicazioni. Poi ci sono insomma anche altre regole, ma fondamentalmente stiamo parlando di questo. In questo caso la regione immagino si sia preoccupata, si dovrà preoccupare di garantire a tutti gli operatori parità di condizioni, cioè io sono un operatore magari anche piccolino, voglio erogare un servizio in un piccolo comune lombardo, dovrò poter accedere, giusto? Molto giusto, è la filosofia che ci ha ispirato, cioè di garantire la neutralità assoluta della rete rispetto agli operatori. Ma dirò anche un altro punto. Oggi il prezzo di mercato per l'utilizzo della fibra è intorno ai 14 euro, quindi c'è un aggravio di costo rispetto all'utilizzo del rame di circa 5-6 euro mensili che l'utente in fibra paga in più rispetto al normale doppino di rame legacy ADSL. Non ti nascondo che noi abbiamo modellizzato diversi scenari, e quello più accattivante, che probabilmente sarà al centro della decisione politica prossima da parte della giunta regionale, è quello di mettere in condizione l'utente di poter passare dal rame alla fibra senza oneri aggiuntivi. Quindi possiamo ipotizzare che la fibra possa costare ad un cittadino grosso modo quello che costa oggi la DSL. Corretto. Con chiaramente sono una serie di benefici. Tempi di realizzazione, non abbiamo ancora detto nulla su questo. Noi abbiamo progettato l'intervento in un arco temporale di 6-7 anni. È un obiettivo molto ambizioso, tenendo presente la quantità di chilometri per posare fibra, si parla di 41.000 chilometri. si parla di 4 milioni di utenti serviti, qualcosa come circa 2 milioni di unità immobiliari e 500.000 di edifici, quindi sono cifre molto importanti. Le abbiamo modulate in modo tale da poter disporre di tutta la capacità produttiva oggi esistente nel nostro paese. E ti dirò, il nostro sogno sarebbe anche quello di poter offrire questa iniziativa come volano per lo sviluppo di una industria delle telecomunicazioni che, ricordiamoci, aveva una base importante in Lombardia, e io su questo sono molto fiducioso. Quindi diciamo industria legata in qualche modo alla fibra. Industria legata all'elettronica, alla fibra e ai lavori civili relativi. Non abbiamo detto un passaggio che è importante. Cosa deve accadere perché questo progetto prenda il via definitivo? Una fitta tela di rapporti negoziali che mettono insieme diversi soggetti. Innanzitutto il protagonista è Regione Lombardia, che dovrà formalizzare l'approvazione del progetto, dando incarico a Finlombarda a costituire un veicolo, una società di scopo che ha il compito di realizzare l'infrastruttura e di metterla a disposizione degli operatori. Ovviamente per arrivare a questo risultato stiamo lavorando per concordare una partecipazione con lo Stato, quindi con il governo, sia direttamente o tramite una sua società che attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Un altro fronte è quello aperto con gli enti locali, perché il nostro progetto si fonda sulla disponibilità di infrastrutture esistenti all'interno delle quali puoi posare fibra attraverso cavidotti. Si dovrà realizzare inevitabilmente con un accordo degli operatori, i quali dovranno spostare gli investimenti infrastrutturali nel settore dei servizi, in modo tale che nel momento in cui quasi contestualmente arriva fibra a casa riescano ad arrivare offerte commerciali apprezzabili, sia in termini di trasporto dati che video, con l'industria elettronica a supporto, perché sarà richiesto inevitabilmente un grande sforzo di anticipazione di tempi relativi ad alcune innovazioni tecnologiche su cui noi contiamo. Quindi è un grande lavoro di orchestra che sarà abbastanza impegnativo. Potrebbe partire il tutto entro l'anno? Sì, l'obiettivo è quello, e l'obiettivo conseguente è quello di portare a prima infrastrutturazione pezzi importanti di città o intere città entro il 2011. Sì, quindi tempi abbastanza visibili, perché insomma senza grandi attese. Una domanda che può essere difficile, perché stiamo parlando di una infrastruttura che guarda al futuro. Del resto spesso quando si fa riferimento a questo tipo di infrastruttura si dice, gli esperti dicono, rete di prossima generazione, next generation network, quindi guardiamo ad un'altra generazione anche in termini di età anagrafiche. Ma per farci che cosa, cioè che cosa possiamo immaginare che transiti attraverso questa rete? Perché uno potrebbe, molti ascoltatori potrebbero dire, ma io con la DSL oggi faccio già quello che, di cui ho bisogno tutti i giorni. È veramente un mondo che si affaccia e i cui contorni è utile cercare già di definire oggi. Innanzitutto quantità di dati saranno assolutamente maggiori, si parla in prospettiva di un gigabit per secondo, tenendo presente che la DSL normalmente viaggia su 2 megabit per secondo, quindi sia in termini di dati, pensiamo alla capacità e la velocità di elaborazione dati che questo ha come possibilità, ma soprattutto la capacità di trasportare immagini e video. I settori di applicazione sono innumerevoli, provo a citarne qualcuno. Dal telelavoro alla telepresenza, questo ha un impatto immediato sui costi di trasferimento fisico che oggi pesano sulle aziende e sulle famiglie. La telemedicina e teleassistenza, telemedicina, la possibilità di operare a distanza attraverso robot che hanno bisogno di banda sicura, quindi di capacità di trasporto molto elevata e soprattutto in grado di poter garantire la continuità. La teleassistenza, è possibile assistere, visitare e tenere sotto costante monitoraggio a distanza qualsiasi persona. Pensiamo alla telegiustizia, un esempio di applicazione Cremona, i detenuti non viaggiano più perché le deposizioni in tribunale vengono fatte in telepresenza e questo è un risparmio che anch'io ho scoperto essere molto, molto grande. Pensiamo all'e-government, cioè la possibilità di godere dei servizi a casa da parte del cittadino e della pubblica amministrazione. Pensiamo all'e-learning, quindi la possibilità di poter assistere a lezioni a distanza a casa da parte degli studenti e di sostenere esami mediante accreditamento. Ma è un mondo. Pensiamo alle smart grid, cioè la capacità di poter immettere energia da fonte rinnovabile in sede remota, che ha bisogno di una contabilizzazione specifica e di una regolazione a distanza. Poi diciamo che molte cose dovranno ancora essere scoperte, ma immagino che, ad esempio, facendo riferimento a tutti i servizi che già oggi vengono erogati a distanza per le aziende, con una rete più affidabile e con una capacità maggiore, insomma, questi servizi potranno avere un mercato più ampio. Un'ultima domanda tra un minuto, per favore. Questa settimana potrei dire e suggerire a molti dei nostri ascoltatori che scaricano il file MP3 della nostra trasmissione dal nostro sito internet anche attraverso il servizio podcast, che una buona idea potrebbe essere quella di segnalare questa trasmissione a tutti i politici che conoscete, soprattutto le piccole e medie amministrazioni. Pensate quanto utile potrebbe essere, ad esempio, inserire in tutti i regolamenti comunali l'obbligatorietà di prevedere opere infrastrutturali che possano accogliere la fibra. Che ne so, si fa un marciapiede, obbligatoriamente si deve non posare fibra, ma almeno prevedere il tubo che possa contenere quella fibra. E per questo, insomma, bisogna fare opera di alfabetizzazione digitale tecnologica, potremmo dire così. Concludiamo questa parte dedicata al progetto Lombardia per la fibra ottica. Tra poco parleremo del 4G, un'altra evoluzione molto interessante, cioè l'evoluzione del 3G dell'UMTS. Ci sono alcuni paesi che stanno già facendo investimenti in questa direzione. Ma concludiamo con Raffaele Tiscar, che è responsabile del progetto Banda Larga per la regione Lombardia. Vorrei fare un'ultima domanda, Tiscar. Possiamo pensare che una rete nazionale, anche se il dibattito si è riacceso nelle ultime ore su un progetto nazionale per la fibra ottica, per la banda larga, possiamo pensare che questo progetto nazionale, questa rete nazionale possa nascere collegando progetti locali che forse potrebbero vedere la luce molto più velocemente che un progetto nazionale un po' complicato, un po' complesso? In realtà un piccolo risultato l'abbiamo già ottenuto, perché il nostro progetto è stato richiesto dal Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Quindi c'è già un effetto di seminazione importante. Io sono assolutamente convinto che la regione costituisca una dimensione ottimale per capacità di aggregazione dei soggetti presenti sul territorio, perché è un po' più grande rispetto alla dimensione dell'ente locale, che altrimenti non avrebbe possibilità di accedere a questa infrastruttura, soprattutto se non è delle dimensioni di Milano, ma non è nemmeno una dimensione nazionale, dove in realtà le situazioni sono molto diverse territorio a territorio. Bene, io ringrazio Raffaele Tiscar per essere stato con noi. Buon lavoro, perché sicuramente, insomma, il lavoro non manca. Grazie, ce n'è bisogno. Dicevamo all'inizio della trasmissione che se non avessimo fatto gli investimenti nell'UMTS, molti dei fenomeni che conosciamo oggi, di cui tanto spesso parliamo, anche a 2024, non esisterebbero. Con lo stesso spirito, bisogna, alcuni dicono, investire nella fibra ottica. Con lo stesso spirito, alcuni paesi stanno investendo nelle reti mobili di prossima generazione. Parliamo del cosiddetto 4G, cioè un'evoluzione dell'UMTS. Accade negli Stati Uniti, che stanno rincorrendo molto velocemente l'Europa. Lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, gli smartphone, l'iPhone ad esempio ha decretato la superiorità del software sull'hardware nel settore della telefonia mobile e lanciato gli Stati Uniti in questo settore. Anche in Asia ci sono molti progetti per creare reti 4G per la telefonia mobile, ma i primi servizi commerciali sono stati lanciati ad Oslo e Stoccolma. Nel centro di queste due città, quindi la capitale della Norvegia e la capitale della Svezia, è possibile navigare in internet dal proprio computer portatile a velocità impensabili finora. Non esistono ancora i telefonini 4G, arriveranno nei prossimi mesi, sicuramente entro la fine dell'anno in questi mercati, probabilmente prima negli Stati Uniti, poi in Europa. Per adesso ci sono solo chiavette USB che noi nel nostro paese utilizziamo per l'UMTS. In questi paesi, o meglio solo nel centro di queste due città, in Svezia e in Norvegia, è possibile acquistare questi prodotti per navigare in 4G, dicevo, a velocità impensabili finora. Allora, un assaggio di questo futuro con due protagonisti, di chi costruisce le reti e di chi le gestisce nel centro di Stoccolma. Ecco quali sono i vantaggi della tecnologia, secondo Mary Westrin, che si occupa del settore radio, e per radio intendiamo le radiofrequenze, all'interno di Ericsson, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni che ha costruito la rete nel centro di Stoccolma. Main reason behind LTE is to get higher data rate if you want to run a mobile broadband. Il motivo principale per utilizzare la tecnologia LTE è quello di ottenere una velocità di trasmissione dati maggiore. Se si vuole gestire una rete mobile in banda larga connessa a internet utilizzando LTE, è possibile raggiungere un'alta velocità di connessione. If you have a 10 MHz you can come up to 50 megabit per second. Se si dispone di una frequenza di 10 MHz si può arrivare fino a 50 megabit al secondo. Se si ha una banda di 20 MHz è possibile superare i 100 megabit al secondo. It's more to compare to the fiber than to the ADSL. Diciamo che è da paragonare più alla fibra che alla DSL. Oggi a Stoccolma vediamo che la copertura in casa, cioè all'interno degli edifici, è attorno ai 30 megabit, quindi è più alta della DSL. 30 megabit per second, so it's higher than ADSL. Stiamo parlando di una tecnologia che per i tecnici si chiama LTE o LTE, ma per semplicità chiameremo 4G per confrontarla con il 3G. È una tecnologia che nasce per internet in mobilità, tanto affidabile e veloce che verrà utilizzata fra una quarantina di giorni, quando la principessa di Svezia prenderà marito, un appuntamento molto atteso a Stoccolma, in tutta la nazione, ma direi un po' in tutti i paesi scandinavi. Pensate che alcune riprese verranno fatte dal vivo sfruttando la rete 4G. Pensate alla rivoluzione, non è più necessario installare nell'area delle riprese una infrastruttura incredibile con antenne, magari addirittura l'utilizzo del satellite, ma sfruttando la rete di telefonia mobile con queste capacità l'infrastruttura di comunicazioni anche televisive è già installata. Serviranno o servono nuove frequenze? Sentiamo cosa ci ha risposto Lars Classon di Telia Sonera, il principale operatore scandinavo che gestisce questa nuova rete. Different from country to country here in Stockholm, but also the Oslo we are running right now on 2.6 GHz frequencies. Sì, la situazione è diversa paese per paese. A Stoccolma e Oslo stiamo usando la frequenza di 2,6 GHz, che è una nuova frequenza che abbiamo dovuto acquisire. In altri paesi stiamo per usare gli 800 MHz che abbiamo già, quindi dipende da paese a paese. C'è un altro punto interessante, perché alcuni pensano che con l'evoluzione del mercato, delle velocità, delle tecnologie per il mondo mobile, quindi il mondo legato ai servizi di telefonia mobile, si avvicini sempre più la cosiddetta flat rate, cioè la stessa condizione che noi abbiamo con la DSL, con i servizi di rete fissa, per cui paghiamo un canone, un abbonamento mensile e abbiamo un traffico illimitato. Così purtroppo non è vedendo i paesi più evoluti rispetto a noi, perché stiamo parlando di un paese, o meglio di un piccolo territorio all'interno di una città, ma che si diffonderà in altre 25 entro quest'anno. Dicevo, guardando l'esperienza di Telia Sonera in Svezia, non possiamo aspettarci una evoluzione di questo genere. Peccato, purtroppo. I think there will always be a little bit of mobility premium, so to say. So you always have to pay a little bit more for the mobile part. Penso che ci sarà sempre un premio di mobilità da considerare, e quindi si pagherà sempre di più per una connessione mobile, anche se i prezzi si stanno allineando. C'è poi un'altra cosa importante da dire quando parliamo di servizi mobili. C'è una soglia di traffico mensile che vogliamo mantenere. Perché l'etere è una risorsa scarsa. E così concludiamo questa puntata di 2024. Prima vorrei dirvi che per il momento in Italia non ci sono progetti per assegnare frequenze a questi servizi. Il Ministero dello Sviluppo Economico non ci ha nemmeno risposto sul tema a domanda specifica sull'LTE, sul 4G. Gli operatori stanno aumentando la capacità delle reti 3G che nei prossimi mesi vedremo sempre più spesso, soprattutto nelle principali città, offrire velocità più elevate rispetto alle attuali. C'è già qualche offerta commerciale a 14,4 e tra poco anche oltre in termini di megabit al secondo. È tutto per questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione. Ci trovate su internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Grazie ad Anita Riotti in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.